A tempo di sport con Carlo Genta. Buon pomeriggio a tutti, Franco Piantaneda in redazione, Mauro De Angeli in regia. Il venerdì di Radio 24 tornerà a ottobre ad essere quello del basket di Palaspicchi. Oggi naturalmente parleremo dei campionati europei che l'Italia ha salutato, però ci sono molti altri argomenti, naturalmente lo sapete bene, in questo venerdì del villaggio, che è un venerdì di inaugurazioni. Lo è stato giovedì notte quello della Juventus, e tra poco ne parleremo anche con voi. 800 24 00 24 numero verde. Inaugurazione del mondiale di rugby questa mattina, mondiale neozelandese, con i padroni di casa della Nuova Zelanda che hanno battuto Tonga 41-10. L'Italia sarà, per chi si sveglia presto domenica mattina, in una partita impossibile secondo me contro l'Australia. Inaugurazione anche per il campionato, con l'anticipo degli anticipi, complice la Champions League naturalmente. Questa sera giù i veli anche alla nostra Serie A finalmente, con quella che è già una partita verissima, cioè quella tra il Milan, iperfavorito del nostro campionato. Io continuo a pensare che la vera notizia che ci ha dato l'estate del mercato fermo, del mercato immobile, sia stata quella dell'avvenuto sorpasso ufficiale del Milan nei confronti dell'Inter come squadra favorita. L'anno scorso si diceva sì, il Milan vincerà lo scudetto, però l'Inter era la squadra più forte. Ebbene, ora la squadra più forte, a parere mio, è il Milan. Dunque direi di fare subito un salto con memoria freschissima a Torino ieri sera, per provare a risentire le emozioni dei protagonisti che ieri sera hanno sfilato su quel campo, in quel magnifico stadio nuovo che rappresenta la vera grande novità stagionale. Ebbene, sentiamo qualche voce, inutile, non c'è bisogno di presentazione perché la riconoscerete di sicuro, qualche voce della Juventus. Voglio andare a casa. A casa dov'è? La casa dove posso stare in pace, io voglio andare a casa. A casa dov'è? Signori, benvenuti a casa. La famiglia Mieli ha fortemente voluto questo stadio, l'emozione è visibile. Siamo milioni nel mondo, siamo milioni in Italia e siamo centinaia di migliaia in questa città. Sappiamo gioire, sappiamo soffrire, sappiamo stringere i denti, sappiamo vincere. Noi siamo la gente della Juve, occhi che sanno accettare i risultati conseguiti sul campo, su un campo verde come questo. Solcato da linee bianche che definiscono il nostro destino, linee che non mentono, perché il campo dice sempre la verità. La casa dov'è? La casa dove posso stare in pace, io voglio andare a casa. Oggi è un giorno speciale, questo è lo stadio che ci meritiamo, che vi meritate. E speriamo che assorba tutta l'energia, l'entusiasmo e le vittorie che i tre precedenti hanno avuto. Non so cos'altro dirvi se non che passione, amore, coraggio e voglia e determinazione sono cose fondamentali nel calcio e in tutto. E noi ce la metteremo tutta anche quest'anno. Questa è la mia casa. La casa dov'è? La casa dove? La mia vita nella Juventus è iniziata il 4 giugno 1946. E sono ancora qui, dopo 65 anni, per abbracciarvi tutti e ricordare ai giocatori la frase scritta su un striscione poco tempo fa. Vincere non è importante, ma è l'unica cosa che conta. Nell'Italia dei comuni e degli stadi comunali in affitto c'è il primo stadio del futuro, anzi del presente europeo. La Juventus è il primo club europeo, grande club europeo d'Italia, e per paradosso tutto nostro è fuori dall'Europa calcistica. Saluto e ringrazio Roberto Perroni, inviato del Corriere della Sera e firma storica. Ciao Roberto. Ciao. Belle le emozioni di ieri sera. Belle le emozioni di ieri sera. Ma sicuramente lo stadio è emozionante, è uno stadio per il calcio, come gli inglesi, come i tedeschi, anzi forse meglio, perché la stampa è trattata meglio di quello che trattano gli inglesi, ad esempio. Cioè, la tribuna stampa è comoda, la sala stampa è bellissima, e diciamo che devono un po' crescere quello sulla ristorazione, ma si faranno, ecco. Puoi dargli qualche consiglio? Sì, certo. O mandargli qualche libro? Sì, esattamente. Però insomma, diciamo che lo stadio è fantastico, come abbiamo detto tutti, adesso bisogna riempirlo con una squadra. Sì, questo è vero. Senti Roberto, io l'augurio che mi sono sentito di fare nei giorni scorsi agli juventini è che questo stadio fosse l'occasione per staccare definitivamente gli occhi dallo specchietto retrovisore. In cambio ho ricevuto qualche chilo di mail che parlavano ancora di Farsopoli, che ricordavano come il futuro non esiste senza passato e cose di questo tipo. Ma guarda, io purtroppo sono d'accordo, cioè purtroppo capisco, perché le dicevo anch'io, le lettere dei tifosi juventini, ma non c'è risarcimento postumo, cioè loro purtroppo questo non lo capiscono, il risarcimento postumo non arriverà, e quindi bisogna rassegnarsi purtroppo, cioè io credo che le recenti vicende, le recenti scoperte fatte su quel periodo, come spesso succede su determinati periodi storici, hanno portato alla luce fatti diversi che se scoperti allora, se divulgati allora, forse avrebbero cambiato la storia. Però non è successo, la storia ha fatto il suo corso, ingiustamente, più o meno ingiustamente, e quindi non si torna indietro, insomma bisogna andare avanti, e la Juve deve concentrarsi più su quei due scudetti andati, sui due che potrebbe vincere in futuro, insomma, sì. Cioè, sui due da riconquistare. Ecco, io credo che comunque lo facciano, ecco, i tifosi sono un'altra cosa, coltivano le loro giustamente anche il loro rancore, che è una parte del tifo, sì. Ma io credo che quel periodo, perché in Italia è così, magari altrove no, ma in Italia è così, guarda, poi la gente che scende anche in piazza, le rivoluzioni, poi da noi la gente viene ora di pranzo, insomma, cioè, quindi la gente poi se ne va via, quindi è un periodo che insomma interessa a pochi, ecco, cioè, sì. Quindi diciamo a parte della Valle, appunto, e poi da Agnelli, la Juve eccetera, ma poi per esempio interessa della Valle, ma i tifosi della Fiorentina no. Ma i tifosi della Juventus sì, però ai tifosi della Juventus sì, interessa i tifosi della Juventus, ai dirigenti della Juventus, a della Valle. La cosa bizzarra di tutta questa vicenda è che tra quelli che avrebbero dovuto fare più casino sono quelli della Roma, perché in teoria sono quelli che sono arrivati terzi, cioè quell'anno, no? Sì, certo. Quindi avrebbero potuto dire: ma come, avete dato lo scudetto a questi a tavolino e poi si scopre che invece eccetera eccetera eccetera, e invece stanno zitti, però perché la gente poi dopo un po' si annoia, no? Ma sì, per combattere battaglie di retroguardia bisogna sempre averne voglia. Sì, esatto. Quindi cioè io credo che questo stadio apra un capitolo nuovo della storia della Juventus, un bellissimo stadio. Bisogna concentrarsi su quello che è da mettere dentro questo stadio, quindi un pubblico come quello di ieri sera, partecipe, tifoso al punto giusto, senza sì. cadere in eccessi. Ecco, magari una squadra un po' diversa da quella, certo, da quella certo. cioè alla mozzarella scaduta che abbiamo visto. Insomma. Ascolta Roberto, se hai un attimo di pazienza ne parlerei qualche minuto con te subito dopo il traffico, perché adesso questo è il punto, c'è la squadra, è una squadra però paradossalmente fuori dall'Europa, è una squadra che deve ancora conquistare tutto. È una squadra interessante, ma è la squadra giusta, è una squadra forte abbastanza per la tradizione che ieri sera è stata esibita giustamente sul prato del nuovo stadio. Ne parliamo dopo il traffico. Caro Roberto Perone, si diceva dopo lo stadio serve qualcosa da metterci dentro. La Juventus è forte, ma quanto non lo so io sinceramente. Tu hai un'idea? Ma sinceramente no, l'ho seguita poco nel precampionato, era la prima volta che la vedevo giocare ieri sera. Ieri sera non fa testo, anche se devo dire, come diceva Boniperti, l'unica cosa che conta e vincere. E vincere, e come dire, ai suoi tempi si prendevano sul serio anche le amichevoli, specialmente contro una squadra di terza divisione inglese. No, ieri sera ho visto una squadra un po' così, forse non aveva troppa voglia, però il fatto di non averne voglia non è una giustificazione. Sul modulo chiaramente ci sono un sacco di domande, come voi sapete, insomma, Conte ha le sue idee, ha chiesto determinati giocatori, insomma, è una squadra che negli ultimi due anni personalmente mi ha un po' spiazzato, insomma, sì. Due volte, quindi, come dire, mi riservo la prognosi, nel senso che voglio vedere un po' le prime partite, le prime cose. Ecco, ha preso giocatori interessanti, io sono uno di quelli che è convinto che le squadre si fanno con i campioni. Sì, anch'io. Quindi, il problema è che i campioni, giustamente dice Conte, i campioni in Italia non ci vengono più, e questo è vero, però ecco, tutti i giocatori seguiti dalla Juve, anche quelli che non sono arrivati, non lo erano, ecco, quindi come dire. Ma io credo che comunque uno come Vucinic non abbia nulla da invidiare a, magari se non l'alone, se non la reclam, non abbia nulla da invidiare ad Agüero, come a Tevez, a questi che sono stati accostati alla Juventus. Il problema è che per campione intendo Ibrahimovic e Messi, Ronaldo, nel senso, tu devi fare un, purtroppo non si può più fare, ecco, c'è una volta Zidane, ecco, c'è una volta pigliavi Zidane, cioè pigliavi Platini, pigliavi questi qua, adesso in Italia questi qui non li pigli più, ecco. Sì, sì. Quindi già parti male, ecco. Io credo che la Juve debba lavorare molto con quello che ha, spero l'allenatore è uno molto convinto, eccetera, dipenderà molto dalla squadra che metterà in campo, dalla sua capacità di governarla, ma anche dalla società di stargli accanto. Sì, sì, questo sì, ma anche dalla sua duttilità, che non mi sembra la qualità migliore di Antonio Conte, allenatore. La duttilità è, come dire, chiaramente una dote che può sembrare importante, però tutti i grandi allenatori poi così duttili non sono stati, insomma, cioè nel senso tutti hanno bene o male la loro idea e alla fine la seguono, ecco, cioè bisogna vedere, ecco, bisogna vedere un po' come questo modulo, come si adattano, insomma, purtroppo certo, una Juve che deve crescere in corso d'opera, ha questo vantaggio di non doversi spaccare la schiena e le scatole inseguendo campetti periferici d'Europa minore innevati con i dopo sci, come faceva Denneri l'anno scorso, eccetera, questo potrebbe essere un vantaggio, insomma, è una stagione veramente di passaggio. Io dico una cosa, forse Wenger non è un allenatore che ha vinto molto, però un allenatore che tutti gli anni porta la squadra in Champions League, porta la squadra, rifà la squadra con i giovani e riesce ad avere successo. Io credo che uno dei primi pilastri per costruire una squadra vincente sia una certa continuità anche nella gestione tecnica. Ecco, la Juve questo non l'ha avuto negli ultimi anni. No, certo, certo. Io mi auguro che, ecco, già l'anno scorso è migliorata perché non ha cacciato l'allenatore negli due anni precedenti l'ha fatto. Io spero che se hanno scelto Conte l'abbiano scelto per un periodo, quindi lo supportino anche se le cose non andassero bene. Dietro ogni grande allenatore c'è una grande società, io rimarrò sempre profondamente convinto di questo. Roberto, ti ringrazio, buon lavoro. Grazie a voi. Buon lavoro, un abbraccio. Tanto. Grazie a Roberto Perrone con cui abbiamo aperto questo programma. Adesso però voce agli ascoltatori, oppure computer agli ascoltatori, come sapete stiamo in piena evoluzione multimediale qui a Tempo di Sport. Perché siamo su Facebook, siamo su Twitter, poi avete gli SMS, solito numero 349-238-6666. Soprattutto avete la vostra voce, 800-24-00-24 per intervenire. Non ne abbiamo parlato con Roberto Perrone, vorrei farlo con voi, magari della copertina di questo campionato che finalmente comincia. l'anticipo degli anticipi, partita verissima, Milan-Lazio. Il Milan senza Seedorf, senza Robinho, costretto tra virgolette a mandare in campo un Cassano, come leggevo anche oggi da una penna molto informata come Alberto Costa sul Corriere della Sera, articolo: l'incompatibilità di Cassano, una filosofia di vita inaccettabile per la società e per la squadra. E si racconta come Cassano sia un po' ai margini del Milan, molto mal sopportato, e la verità è che nessuno se l'è pigliato, guadagna un sacco di soldi ed è un giocatore vicino ai 30 che forse, insomma, in una grande squadra ha questa dimensione, cioè quella del panchinaro di lusso. Marco Dabiella, Salvatore dalla provincia di Parma, primi due di oggi. Marco, buongiorno. Buongiorno a lei. Senta, abbassi la radio che sennò sento il ritorno in cuffia. Grazie. Chiedo scusa. Non volevo rovinare la festa dello stadio, ma mi spiace solamente così un po' ricordare come comunque a volte si parlano sempre, come giustamente prima si parlava degli scudetti, però non si ricorda poi a come si sia arrivata a queste cose. Mi sto riferendo al discorso dello stadio, quando uno stadio che comunque era stato fatto per i mondiali praticamente poi è stato regalato e ceduto alla Juve. Volevo chiedere solamente una cosa: se la novità del campionato forse più che lo stadio della Juve non fosse il campo sintetico di Novara, cosa che credo che condizionerà ben di più le eventuali partite rispetto invece allo stadio. Ma lei sa che anche a Cesena c'è campo parzialmente sintetico, no? No, questo non lo sapevo, ero mal informato su questo. Quindi anche tra l'altro è stato molto divertente. Guardi, adesso tra poco le faccio sentire una cosa di cui spiego la premessa. Anche a Cesena è stato rifatto il campo in estate. Campo sintetico non integrale come quello di Novara, ma parzialmente sintetico, dunque qualcosa di ibrido. E ieri su quel campo debutterà domani sera il Napoli, 20:45 è l'unico anticipo del sabato in cartellone domani. Ebbene, se ne è parlato ieri alla conferenza stampa inaugurale della stagione, la conferenza stampa pontificia, se vi piace più così, di De Laurentiis, che si è portato Inler e due scudieri per presentargli, lasciandogli le briciole ovviamente di questa conferenza stampa. A De Laurentiis è stato chiesto: ma andate a Cesena a giocare su questo nuovo prato mezzo sintetico e mezzo no? E lui che cosa ha risposto? L'altro anno noi siamo andati a Cesena, che c'aveva il campo sintetico, mica ha messo questa. No, non ce l'aveva l'altro anno? Cioè, ma l'altro anno Cesena non ce l'aveva, l'ha messo quest'anno? Ha giocato al debutto in Europa. Sono cazzi pure per loro, non ho capito. Quindi non era solo il nostro ascoltatore di Biella a non conoscere quest'altra... Così, piccola novità della stagione che va ad iniziare, che riguarda il campo del Cesena. Insomma, sono cazzi pure per loro, non saranno abituatissimi a giocare su quel prato mezzo sintetico. Salvatore, provincia di Parma, buongiorno. Buongiorno a lei. Dica. Senta, io volevo fare una piccola considerazione sul stadio della Juventus, sulle parole del presidente Agnelli: il campo dice sempre la verità. È vero, ha ragione. Mi risulta però che ieri sera mancavano due personaggi importanti che avessero costruito quella Juve così forte, così grande. Come mai questi due personaggi, che probabilmente lei ha capito a chi mi riferisco, non sono stati invitati dalla Juve, visto che questi due personaggi li hanno fatti così grandi e sul campo erano forti? Avevano paura di qualcosa, non lo so, 29 scudetti, eccetera, eccetera. Salvatore, l'ascolto per radio. No, ma c'è poco da ascoltare, cosa vuole dire? Io non ho diramato io gli viti. No, ma al di fuori dell'ironia, che è ovvia, no? Al di fuori dell'ironia, che è ovvia, sono risposte che dovrebbero competere a chi ha diramato le convocazioni, quindi non a me. Il discorso vero è che io torno a ripetere: l'augurio più grande che posso fare agli juventini è che in questo stadio trovino le vittorie, trovino gli scudetti, perché il calcio italiano, a prescindere dalla bandiera che ognuno di noi ha nell'armadio, il calcio italiano ha bisogno di una Juventus forte, di una Juventus competitiva, di una Juventus d'avanguardia. Adesso la Juventus ha raccolto quanto ha seminato negli ultimi anni. Ha seminato malissimo sul fronte sportivo, e lo sappiamo bene, inutile stare a ripetere le cose. Ha seminato molto bene invece sul fronte manageriale. Oggi è l'unico vero grande club europeo, moderno club europeo in Italia. Mi auguro che su questa scia si collochino gli altri con il dovuto ritardo, però la via non può che essere questa, quella che la Juventus ha tracciato. È una società all'avanguardia dal punto di vista manageriale, se vogliamo anche dal punto di vista della comunicazione, dal punto di vista del marketing, dal punto di vista della gestione sportiva. Gli manca una squadra, non è un dettaglio da poco trattandosi di pallone, lì gli errori sono stati fatti, ma ieri sera è stata posta questa pietra importantissima. L'augurio che posso fare è di usare questo stadio, questo che diventa quasi un simbolo, per provare a staccarsi da quel passato che è continuamente una battaglia di retroguardia. È inutile, possiamo andare avanti a parlare per 100 anni, non esiste una retribuzione postuma, si diceva prima con Roberto Peroni, io condivido. Daniele da Salerno, buongiorno. Pronto? Pronto, mi dica. Signor Garazzini, sono un tifoso dell'Inter, le volevo dire solo una cosa. Cioè, sto fatto di calciopoli, ogni trasmissione, io la sento tutti i giorni, no? Ormai sono 5-6 anni, pensassero a vincere sul conto, cioè se scudetto, se c'era il Palermo terzo, lo davano al Palermo, che c'entra l'Inter? Cioè, ogni giorno hanno stancato, pensassero di fare la squadra recente, è sempre contro l'Inter, hanno venduto tu e non hanno venduto tu, sono cose che loro non gli riguardano. Sì, perché, ma no, mi sembra che la polemica sia più ampia di questa. La rivalità sportiva ci sta. È chiaro che non è solo una questione di Juventus e Inter, non è solo una questione di a chi è andato matematicamente, aritmeticamente per esclusione quello scudetto. È stata una polemica molto più ampia, come sappiamo benissimo, che ha coinvolto Inter, Juventus e tutto il calcio italiano. Lei dice pensassero a vincere sul campo, io torno a ripetere l'augurio che possiamo fare alla Juventus e agli juventini in quello stadio nuovo di ritrovare competitività e magari serenità. Adesso ci fermiamo per la borsa, poi torniamo insieme, perché abbiamo questi ed altri argomenti. 800 24 00 24 il numero verde, parleremo di Monza, parleremo di basket, parleremo di rugby, torneremo ovviamente a parlare di calcio dopo. Molti ascoltatori sono messi in contatto con noi con vari mezzi, da Facebook a Twitter, a messaggi, a telefonate, per ricordare, ma giustamente, perché è cronaca, come per la cronaca appunto e per la storia, il primo stadio in Italia di proprietà fosse il Giglio di Reggio Emilia per la Reggiana. Questo è vero appunto per la cronaca, ma stiamo ovviamente facendo un discorso un po' diverso, no? Come ben si può comprendere. Per la cronaca comunque è così e vale la pena ricordarlo e ribadirlo. Prima di tornare agli ascoltatori e poi fare un salto a Monza, però voglio tornare sul tema inaugurazione dello stadio, inaugurazione del campionato questa sera con Ibra in campo contro la Lazio. È una Lazio che secondo me nella prima parte del campionato romperà le scatole a molte grandi, vedo una Lazio competitiva, quantomeno la prima metà di stagione, poi vediamo, è una squadra vera, compatta, che ha operato sul mercato andando ad acquistare a piene mani esperienza internazionale, giocatori in là con gli anni, se vogliamo, come chi guiderà l'attacco questa sera, e cioè Klose, però certamente è una squadra pronta per essere competitiva in questo avvio di stagione. Ebbene, altra inaugurazione, quella del mondiale di rugby. Voglio farvi sentire la battaglia delle Acca che ha preceduto questa mattina il debutto ufficiale la prima partita ufficiale del mondiale, cioè Nuova Zelanda-Tonga. La prima Acca è stata quella tongana ed è stata la contesa forse più equilibrata di una partita che poi sul campo non ha avuto molta storia. Cosa dite? Via! Occhi negli occhi, Nuova Zelanda e Tonga, battaglia molto equilibrata nell'Aca, molto meno sul campo, 41-10, partita mai in discussione a favore degli All Blacks. Giuseppe Dall'Aquila, buongiorno. Buongiorno a tutti voi. Innanzitutto volevo fare i complimenti alla Juventus per il nuovo stadio, sì, perché va detto ciò che è vero, insomma, una società che ha investito molto e che ha fatto sicuramente una bella cosa anche per lo sport italiano. Tolto questo merito, voglio dire che i giudizi li ha dati innanzitutto la magistratura sportiva, quindi dire che ci sono cose venute fuori dopo, questo non lo possiamo provare, perché quando c'è un processo si giudica, aspettiamo la fine del processo di Napoli e vediamo i condannati e gli assolti. È facile parlare di Facchetti o di altri, bisogna parlare dei fatti, non delle supposizioni. Se c'è un'archiviazione o perché c'è prescrizione o meno, sì, comunque non c'è una condanna. E poi tornando a quello che stavo detto precedentemente, mancavano due ospiti ieri sera. A me risulta, per aver letto dalla stampa italiana, che qualcuno si è costituito parte civile al processo contro questi signori qui. E se non erro, per aver letto assolutamente, io dico solo quello che ho letto, poi se... Non voglio dire sì, ma siamo, Giuseppe, però ecco, siamo sempre qui a combattere queste battaglie di retroguardia. Se torniamo lì, in questa disputa infinita, in questa disputa dalla quale non usciamo a seconda del colore degli occhiali che portiamo, i suoi sono nerazzurri, quelli degli juventini sono bianconeri, ci sono questi fatti, queste intercettazioni, qui a domandarci la prescrizione, perché non ha rinunciato alla prescrizione per difendersi e perché queste telefonate non sono uscite prima piuttosto che dopo. Continuiamo a combattere queste battaglie di retroguardia, purtroppo non ne potremo mai fare a meno, non ne potremo mai fare a meno, stadio nuovo o non stadio nuovo. Torno a ripetere, mi auguro che questo stadio nuovo per gli juventini possa rappresentare sul serio un inizio, no? Possa rappresentare davvero futuro, quale in realtà è. Adesso però voglio fare discorsi che mi interessano di più, chiedendo a alla grande promessa del nostro rally italiano, che si chiama Andrea Crugnola, che cosa ci fa nel paddock della Red Bull. Ciao Andrea. Sì, ciao, buongiorno a tutti. Buongiorno a te. Sono qua a Monza, penso che lo potete sentire. Sì. Cosa ci fai nel paddock della Red Bull? Ti hanno contattato? C'è un contatto in vista? Siamo qua, salutando il paddock, molto interessante, e speriamo che sarà questo contatto e vediamo. Intanto oggi sono qua e mi sto godendo questa bella giornata. Ti stai godendo questa bella giornata e magari stai sognando un volante di Formula 1, o no? Ma per adesso voglio concentrarmi sul rally, poi per la Formula 1 si vedrà nel futuro. Si vedrà nel futuro, intanto su rally le cose vanno bene, perché hai poco più di 20 anni, terzo in Germania, rally di Germania il mese scorso, e una carriera che mi sembra vada a gonfie vele, quindi è anche legittimo magari. Ma ti piacerebbe correre in Formula 1? Beh, io ho iniziato con i kart quando ero piccolo, quindi non mi piacerebbe, però come dicevo adesso preferirei concentrarmi su rally, anche perché è un po' più adrenalinico come sport. Sì. Andrea, il rumore è bellissimo quanto infernale. Ti voglio chiedere ancora questo: le prime prove di oggi hanno detto che la McLaren va forte, la Ferrari molto meno. McLaren che ha dominato la prima sessione di libera. È chiaro che siamo davvero all'alba di questo weekend di Monza, però alla McLaren si augurano che il buon giorno si veda da questa mattina, insomma. Tu come la vedi questa gara? Ma forse è ancora un po' presto per fare dei pronostici, anche perché bisogna vedere con quanta benzina hanno girato le monoposto. E ovviamente speriamo bene per la Ferrari, che riesca a fare una bella gara, che riesca a vincere qua davanti a tutti gli italiani. Sì, la speranza è quella, anche perché di vittorie quest'anno in Ferrari non ce ne sono state molte da festeggiare. Quasi come vincere a Monza è quasi come vincere il derby di Roma, no? Per la Ferrari. Non ti dico che ti salva la stagione, però almeno ti ripaga un po'. Mi regali ancora un tuo pensiero invece su Sebastian Vettel, che ha più o meno la tua età ed è la vera grande nuova stella della Formula 1. È davvero così forte o c'è un vuoto di potere? Beh, ovviamente sta dimostrando di essere il migliore, pacchetto per far bene, si sta sfruttando al massimo le occasioni che ha avuto e sta facendo un grandissimo campionato. Adesso bisogna vedere le ultime gare che rimangono, però praticamente al mondiale in tasca. Al mondiale in tasca. E tu invece nel mondiale di rally che cos'hai? Mondiale di rally quest'anno per me è abbastanza difficile, in quanto primo anno che sto disputando le gare, alcuni avversari hanno già fatto le gare gli anni scorsi, quindi non è facile, però sono da iniziando, sono sempre andato in crescendo e i pronostici per la prossima gara in Francia sono ottimi e speriamo di far bene. Grazie ad Andrea Crugnola, dunque stella del nascente del nostro rugby ed è lì a Monza, non so se magari a caccia di qualche contatto per la Formula 1. Vedo un sacco di messaggi, la maggior parte dei quali continuano in questa battaglia e le intercettazioni, e il passato e il futuro e il presente, e basta Calciopoli, eccetera, eccetera, eccetera. Io vorrei parlare con voi, non l'ho ancora fatto, non so perché, di quello che vedremo invece stasera, perché Milan-Lazio mi sembra per aprire il campionato già una partita serissima. Il Milan credo abbia tenuto fuori per precauzione Seedorf, perché servirà a Barcellona, e stesso discorso grosso modo potrebbe valere per Pato. Sono molto curioso, torno a ripetere, di vedere come Cassano riuscirà a sfruttare questa occasione che quasi casualmente gli capita tra i piedi. Bruno da Novara, buongiorno. Buongiorno. Dica. Io volevo intervenire su una questione che sta diventando veramente barbosa, quella dei Calciopoli. Naturalmente il discorso, io sono un tifoso juventino, è chiaro che tutta questa atmosfera che si è creata, non è che l'ha creata la Juventus o i tifosi juventini, ma purtroppo devo dire che la divaricazione tra i tifosi, che non è più una competizione normale, ma è diventato quasi astio, l'hanno creata le dichiarazioni del presidente dell'Inter, mentendo, dicendo che è lo scudetto degli onesti e che comunque non c'erano telefonate. È questo che dà fastidio. Probabilmente sì, capisco. Ma Bruno, ma perché? Allora, visto che c'è, perché vuole intervenire su una questione barbosa, come lei ha giustamente detto, e non interviene su temi che riguardano il futuro anche vicinissimo, come quello di questo campionato? Insomma. Ha perfettamente ragione. Il calcio va giocato. Allora, i giornali però, e parlo di tutti i giornali, salvo alcuni che sono effettivamente... Io ho sentito prima l'intervento di Perrone, anche il suo naturalmente, che ha inquadrato giustamente il problema. Però se i giornali dicessero, guardate che questa situazione, i tifosi l'hanno subita, tutto sommato, poi che sia giusto, sbagliato, non ha importanza, ma che tutte le volte bisogna sentire lezioni di onestà in televisione, alle dichiarazioni, da un presidente che mente, perché è stato dimostrato che è mentito, e questo dà fastidio, avrà dato fastidio anche all'attuale dirigenza juventina, che quindi è partita in quarta per chiedere alcune cose. Ma tra tutti, insomma, ognuno ci mette del suo, poi non so, in questo caso io non sopravvaluterei neanche il ruolo degli organi di stampa, ognuno ha le sue convinzioni, ce l'ha e se le tiene, e noi da qui non ne usciamo, avete visto? Non ne usciamo da questo gorgo. C'è il campionato che sta per cominciare stasera, c'è, vabbè, lo stadio nuovo, poi ci sono mille temi, no? Da Monza al rugby a quello che volete, e siamo sempre qui a girare sto coltello nella piaga, non ne usciremo mai. Mentre Andrea Bedini su Twitter, un ascoltatore, ci segnala che lo stadio Giglio è all'asta fallimentare, sempre per la cronaca. C'è qualcuno che scrive: come sempre quando qualcuno mi mette in difficoltà lo interrompete e cambiate discorso, siete parte ideale di quest'Italia delirante e senza futuro. Ringrazio sentitamente, ma guardi, la mia non è questione di difficoltà, è davvero questione di noia. Io faccio fatica a stare dietro a questi discorsi, ma una fatica terribile, mi annoio e quindi qualche volta perdo l'attenzione, la concentrazione, ma sul serio. Antonio da Modena, buongiorno. Buongiorno, senta, io volevo domandare, ma una squadra, diciamo, sono un appassionato di calcio, non è tifoso, ma una squadra come l'Inter, che siamo all'avanguardia, come fa a comprare un giocatore come Forlan sapendo che non poteva giocare in segno? Non so. Dove erano tutti questi, tutti, diciamo, una società come l'Inter è una cosa... È un errore, è certamente un errore, perché... Ignoranza legis non è scusa, non può essere una scusante il fatto che non, non fossero ben conosciute questi, non fossero ben conosciuti questi regolamenti piuttosto bizzarri, secondo me molto stupidi, perché non, non esiste che perché un giocatore ha messo piede in campo in Europa League ad agosto non possa. Però la, la legge è legge, è questa, l'Inter non la conosceva, ha commesso un grave errore. E tutto qui. Come si fa? Non lo so. L'hanno fatto e Forlan potrà giocare soltanto a, a gennaio. Dunque, adesso vorrei però andare sul, sul discorso basket. Venerdì non possiamo prescindere dal, dal discorso basket. Tra poco, tra qualche settimana, torneremo a dedicare l'intera ora a, alla palla a spicchi, con mio grande piacere, devo dire. Siamo in tempo di europeo, un europeo che abbiamo salutato in maniera eccessivamente anticipata. Palla spicchi. E prima di fare due chiacchiere su questo europeo e sull'esclusione dell'Italia, vorrei farvi sentire una cosa, cioè un time out di Simone Pianigiani alla fine della partita contro Israele. Sentiamolo. Ma bisogna che si giochi con un po' di dignità, con un po' di anima, cazzo, nessuno fa un salto, un fallo con la palla lì. Facciamo cazzotti almeno. Dai. Ma che cazzo avete dentro? Chiamatela se volete frustrazione. Coach Dan Peterson, buon pomeriggio. Ciao cari amici sportivi, buon pomeriggio a tutti. Sono a Rimini adesso per il campionato del mondo 3 contro 3 under 18, sì, maschile e femminile. Com'è? Beh, bene, noi Sport Italia abbiamo fatto già 6 partite, io e Niccolò Trigri in diretta. Qualche sorpresa già, c'è Bulgaria che batte gli Stati Uniti maschile, però Bulgaria con 18 anni, Stati Uniti con 16 anni, quindi è anche incapibile. Comunque è una bella manifestazione, la Federazione Basket e la FIBA insieme con tanti diversi sponsor, quindi, e vogliono fare 3 contro 3, diventare sport olimpico come beach volley nella pallavolo. Sì. Io 3 contro 3 sono bravo, però non ho più quell'età lì, sono fuori età, caro coach. 3 contro 3 è la base del basket e quindi niente da dire, quindi e si vedono i talenti qua, già ogni paese ha dimostrato di avere qualche giocatore interessante. Cosa, era capitato anche a te naturalmente di fare dei time out come quello di Pianigiani che abbiamo fatto sentire agli ascoltatori, ha parlato di dignità, di orgoglio, di anima, sì, di che cosa avete dentro, ma facciamo almeno a cazzotti, insomma era davvero un, non ti dico time out della disperazione, però un time out di frustrazione. Cioè, un po' di tutto, però probabilmente Simone Pianigiani ha detto quello che volevano dire tutti, ok? Quindi è stata lui vox populi in questa situazione qua, quindi magari ha fatto qualche storia, è già su YouTube con le storie lì, eccetera, però lui ha dato un'espressione di grande attaccamento alla squadra italiana e altre cose, e quindi ha esorto i suoi di mettere tutto in campo, anche se era molto difficile, ok? Dopo l'eliminazione in matematica per la squadra, però lo stesso, una partita in cui tu stai giocando per l'Italia deve dare il 100%, e la gente sa adesso cosa pretende Simone Pianigiani. Non ho niente da dire su questo. È stato giusto non mettere in discussione Pianigiani dopo questo europeo, secondo me. Sì. Allora, ovviamente un allenatore che ha risultato così magari viene messo in discussione, ma io sono grande stimatore di Pianigiani, grande tifoso di lui per queste cose qua, quindi è sempre facile dopo le delusioni cambiamo. Le tre parole che distruggono sono queste tre: dobbiamo cambiare qualcosa. Lui è la persona giusta, l'ha detto Meneghin, l'ha detto Petrucci, l'ha detto altre persone, io mi collego solamente a quello che ne ha detto loro. E lui ha dato tutte queste due esperienze, l'anno scorso e quest'anno Pianigiani ha fatto un grande tesoro di conoscenza della situazione, e forse questo tipo di time out lo farà durante il primo amichevole, hai capito? Cioè non aspetterà tanto tempo l'anno prossimo, quando farà le qualificazioni per gli europei di 2013, quindi certamente ha fatto tesoro di questa esperienza, le sue prime con la squadra azzurra, cioè, e poi non c'è un altro allenatore da prendere, tra l'altro, quindi lui veramente è bravo, bisogna farlo lavorare. Coach, è stato deludente anche l'europeo delle nostre tre stelle o presunte tali, dei nostri tre giocatori NBA. Nessuno dei tre è pronto per essere leader emotivo, nemmeno Danilo Gallinari. Questo si può capire, né leader emotivo né leader tecnico. Carlo, io voglio fare ti rubo qualche secondo per raccontare un episodio. Io l'anno scorso, prima di prendere in mano la squadra di Milano, fai conto a dicembre, eravamo a Roma per la partita di Eurolega, Roma contro Real Madrid, con Ettore Messina e Real Madrid ha vinto di tanto, ok? E io ho visto l'ex campione del Real Madrid, l'americano Sergio Luke, che era lì, Clifford Luke, il figlio era sì. Sergio Luke, Clifford Luke, che era lì e avevano già ripreso in squadra Sergio Rodriguez, ok? Sergio Rodriguez, che aveva giocato 4 anni nell'NBA. E lui mi ha detto, sai cosa è successo a Rodriguez dell'NBA, che ha giocato 4 anni? Ha dimenticato come si deve giocare pallacanestro. Questo è stato una condanna da parte di Clifford Luke per come si gioca nell'NBA. Okay? Infatti, venendo qui a Rimini in macchina con Nicolò Trigori, ho detto, coach, quello che tu hai detto sull'NBA, che la qualità del gioco non è sempre più alta, che si disimpara a fare le cose, e questo è un grande guaio. Il basket più logico, più intelligente, più tecnico per me si gioca qui in Europa, quello più spettacolare, più atletico si gioca negli Stati Uniti, non ci sono dubbi, più talento, tutto quello che vogliamo dire, eccetera. Però giocare nella maniera giusta, molti fanno fatica quando vengono qui, non Pau Gasol che sta giocando bene, non Dirk Nowitzki che ha vasta esperienza in campo internazionale. Per la verità è che Bagnani, Bellinelli, Gallinari non hanno una grande esperienza in campo internazionale a livello della squadra nazionale. Bellissimo. Mentre gli altri, sì, Tony Parker, molta esperienza. E qui hanno pagato questo, perché qui, a mio avviso, il vero basket intelligente, logico, tecnico, e si deve giocare qui. E hanno pagato, secondo me, tanto il fatto di giocare nell'NBA e cercare di trasportare sicuro quel tipo di gioco qua in Europa. E non va sempre. Certo, grazie coach, sentiamo venerdì. Ciao ragazzi, puntuali. Un abbraccio. Grazie a coach Dan Peterson, Giuseppe, provincia di Bari, Giancarlo da Genova, un minuto e mezzo prima di chiudere la trasmissione. Giuseppe, buongiorno. Buongiorno. Dica. Eppure io stavo esprimendo le stesse perplessità che ha espresso lei per quanto riguardava i nostri tre NBA, insomma, che non hanno lasciato il segno, ecco, se vogliamo. Forse pretendevamo troppo da loro, cioè che trasformassero una squadra di fatto perdente, di fatto debole, di fatto uscita con le ossa rotte dalle ultime stagioni, in qualcosa di diverso, non ne avevano la forza, non ne avevano le possibilità, non ne avevano le capacità. Magari anche gli altri si sono nascosti dietro, si sono deresponsabilizzati all'ombra di questi tre che sono stati, ovviamente, che sono finiti su tutte le copertine. Vogliono voi, andate avanti voi, che a noi viene da ridere. Quindi il mix per ora non funziona, non so se funzionerà in futuro, ma Pianigiani credo sia quello giusto per provare a vedere se si trova questa chimica. Giancarlo, buongiorno. Franco, buondì. Sì, io volevo una riflessione molto rapida che si basa su due punti di riferimento. Il primo sono le percentuali di tiro. Se mancano le percentuali di tiro è perché uno non ci si allena, e questo non credo che a quei livelli e con Pianigiani manchi il lavoro sul tiro da tre e sul suo automatismo. Quindi se non si mettono, come diceva Carlton Mais una volta, l'importante è metterla, è perché forse manca la fiducia. Ma guardi, io credo anche che fiducia, allenamento fuori discussione, perché allenamento si allenano, la fiducia magari mancava, soprattutto mancata una qualità accettabile delle esecuzioni offensive. L'Italia in attacco giocava veramente male, questa mi è sembrata l'aspetto più lampante della nostra disgraziata spedizione europea. Naturalmente su tutti questi temi e su altri torneremo nel weekend, domani dalle 17 alle 18 come ogni sabato, domenica lo ricordo dalle 16:30 alle 19 per insomma festeggiare e parlare insieme della prima giornata reale del campionato di Serie A. Grazie a Franco Piantanida in redazione, Mauro De Angeli in regia, ci sentiamo domani.